Pane burro rock and roll, 7:30 minuti primi, problemi? If you have a problem, if no seconda mezz'ora, fraziollo ma non mollo, siamo tornati! Ariele Spadino, Fricantoni, ma soprattutto tutti voi là fuori! Saluti a Tom, un poeta, di SMS, riflesso all'alba, ridi e guardi il pacco. Sul tuo cesso ascolti Fricche l'almanacco, complimenti. Buona giornata a Carlos, invidia per CH3 da Firenze. Perché quando passa uno con la densa palla non si gira nessuno e quando passo io con rock and roll si girano tutti? Medaglia. Io vi ascolto tutte le mattine da 4 anni, complimenti. Ciao Conte. Però qua, cioè, noi non è neanche un anno che ci siamo a quest'ora. Però, ma, cioè, insomma, supporti Rock FM, ecco. Antonio, c'ha l'invidia Antonio. Quando i Led Zeppelin hanno suonato a Londra, ho portato in aeroporto una tizia che andava a vederli. Medaglia. E presto trasformata in rabbia quando ho saputo che non sapeva chi fossero. Le ho fatto ascoltare io sul mio taxi alcune canzoni. Non c'è giustizia, post scriptum. Il biglietto gliel'avevano regalato. Medaglia. Antonio, tassista. Ciao. (Ride) 335 100 77 77 e ariel@radiorockfm.com. Non dimenticate mai che via SMS ci può iscrivere per il provino per diventare musicisti rock con la bocca, se interessa. Basta scrivere musica rock con la bocca, sì, e la redazione prima o poi vi contatta. Ciao, bussiamo alle porte del paradiso? Ma sì, dai, lo facciamo con i Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door. knock knocking on heaven's down wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Classico della produzione Dylan, rivisitato, rinvigorito dai Guns N' Roses. State attenti a fare gli spiritosi coi messaggi, perché potrebbe tornarvi indietro come un boomerang, come diceva Zucchero qualche tempo fa. Resto colpito, mi piace questo messaggio. Fla, saluto, ciao Fla, che scrive: basta con scrive: ma non basta quello del pomeriggio. Ora vi ci mettete pure voi con i Guns N' Roses, basta. A momenti preferisco la vostra versione dei Led Zeppelin col kazoo. Cioè, stai attento, perché se solo, hai capito, mandati un messaggio così scattano i Led Zeppelin col kazoo. Ovviamente quello del pomeriggio che ce l'ha con i Guns N' Roses è sicuramente Edo, cioè ci metto la mano sul fuoco, va bene. Non è tempo di Led Zeppelin col kazoo, bensì è tempo di occuparci degli amici e delle amiche che si stanno recando al lavoro e che, per dinci o per dinci in bacco, sono in ritardo. Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Direttore, sono veramente pentito per il mio ritardo. Vede, nel mio palazzo hanno tolto l'acqua calda proprio dalle 7 alle 9 di mattina, quando va in onda quella trasmissione su Rock FM, non so se la segue, Pane, Burro e Rock and Roll, trasmissione peraltro eccezionale, ma non fa nulla, ecco, non volevo distrarla. La verità è che non mi sembrava il caso di uscire e di venire in ufficio senza farmi una doccia. Sul più bello è mancata l'acqua, quindi non le dico il disagio, i bambini che in casa non si potevano lavare, non ci si poteva preparare la colazione. Insomma, abbiamo dovuto aspettare il ripristino dell'acqua, anche perché venire emanando una puzza indecorosa non mi sembrava il caso. Il ritardatario ritardato. Non dimenticate, una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. Yeah. Prego maestro, salga pure in piedi sulla seggiolina di Rock FM. Sì, per la poesia del giorno. Stia attento a non cadere, sì, eh. Sono in equilibrio. Su, forza. Allora. Ogni vita ha le sue pene. Sì. E l'almanacco ne conviene. Ne conviene, sì. Lei sta sbirciando. Sì. Or per chiudere quest'ode, dirò che con l'almanacco qui si gode. I compleanni del giorno, che goduria veramente. 20 di febbraio, mercoledì. Chi nacque? Nacque Robert Altman nel 1925, regista americano, MASH, oppure Americano Oggi. È un registrone di quelle questo primo MASH se ne frega, un grande film antimilitarista che ci è piaciuto non poco. Ma senta, dica, sa cosa successe nel 1946? Uibò, chi nacque? Venne al mondo, sì, Riccardo Cocciante. Ma è rock o non è rock? Fuori, perplesso. Cocciante fuori. Fuori e cocciante. Passiamo invece a una modella statunitense che, essendo bella, è rock per forza. 1966, vi fate voi i vostri conti, nasceva Cindy Crawford. Sì, quella stangona che ha un neo qua al lato della bocca. Le piace? Sì, devo dire che non mi dispiace questo tipo di ragazza, carina, insomma, come amica, voglio dire. Simpatica, intelligente, si vede, ecco. Ricordiamo che il 20 di febbraio del 1967 invece nasceva anche Kurt Cobain, cantante e chitarrista statunitense dei Nirvana. Nirvana. Che poi fece una brutta fine, ma oggi nasceva. Quindi, ma oggi nasceva, quindi buon compleanno a lui. E anche a chi è nato oggi. Il 20 febbraio. Sì, auguri. Auguri, medaglia. No, ma è il compleanno loro, mica il suo. Lo stesso. Medaglia. Cooper che fa il romantico, You and Me. That's enough for a working man. What I am, well that's what I am. Lascia ridere, ma. Questa è la colazione più rock d'Italia, si chiama Pane, Burro e Rock and Roll. È parecchio tempo che non torniamo a contattare l'amata Firenze per sondare la nostra piccola band di riferimento. Si chiamano The Anger, mi hanno 13 anni. Noi abbiamo Matte, il nostro infiltrato, che è il chitarrista della band. Buona giornata, Matte. Ciao, come va? Tutto bene? Ci siamo giocati settimana scorsa, ma non ci siamo dimenticati di voi. È solo... Sì, lo so. Siamo un po' casinisti qui a Pane, Burro e Rock and Roll, perdiamo i numeri di telefono, ma poi vi rintracciamo. Allora, vediamo di fare il punto della situazione. Da quello che ho capito avete smesso di provare a casa vostra. Sì, abbiamo preso una sala propria. Aspetta, ma perché avete smesso di provare in casa? Perché il batterista era, sennò era troppo scomodo. Cioè da fare avanti e indietro tutte le volte. Ah, con la batteria, perché doveva montare la batteria. Non perché i genitori hanno osato dire che facevate un po' di casino? No, casa di queste famiglie, i genitori tornano la sera tardi. Quindi va bene. Allora, passaggio fondamentale quello della sala prove. Dove ve la siete trovata, Firenze? Firenze, in via Ungheria. Come si chiama la sala prove? Non ricordo come si chiama. No, piazza o qualcosa, non mi ricordo. Matte, senti me, la prossima volta segnati il nome, che noi in diretta lo diciamo, capisci a me? Secondo me capita, se ha una sala prove, magari è appassionato di rock anche lui, ci ascolta. Secondo me, se sente che gli facciamo pubblicità, ci scappa che vi fa passare la sala prove. Sì. Magari vi fa lo sconto. Sì. E poi quello sconto lì ovviamente me lo bonifichi. Me lo bonifichi a me. A proposito, quanto mi costa la sala prove? Va 22 euro in tutto, perché ci sono tre sale. Ok. Quella piccola 20, media 22, grande 25, sempre da 22. Sì, non state lì a spendere troppo per la sala prove, tanto si fa casino. E come smazzate, alla romana o fate uno fa il signore a rotazione? In che senso? Cioè si divide in quattro? Ah sì, si divide. Ovviamente. Si divide tutto in cinque, si fa la rolletta e si poi si dà. Esatto. La classica colla per la sala prove, buono, sì. Mi piace. Avete già preso il giorno fisso o fate un po' a rotazione? Di solito il lunedì. Di solito sempre il lunedì si fa. Prima era il venerdì, adesso il lunedì. Vabbè, basta che mi andate avanti una volta a settimana. Senti, hai alzato la radio, ti ho beccato. No, non l'ho alzato. Ok, niente, scusa, c'era un ritorno. Allora, cosa mi state preparando di bello? Sentivo War Pig dei Black Sabbath. War Pig e poi Smash Lighting Spirit. Esatto. De Nirvana. Ma senti, un heavy metal. Com'è sta? Un heavy metal? Ma mi metta così improvvisato. Allora, passi da bimbo, occupiamo. Black Sabbath, War Pig, chi la canta? Io, canto. Sgagan! Dan dan dan dan dan dan dan dan. È quella lì, Black Sabbath, War Pig. Sì, so. Tra l'altro è una con Super Assoli. Sì. È bella la batteria quando fa. È tutta bella libera quella. E com'è il batterista? Gli sta dietro? Il batterista è bravissimo. Ah, così, buona. Però il batterista, per me, sono tutti dei dramma. Ricordiamo che il batterista è già il secondo che vi passate. Sì, è secondo. Nel giro di un paio di mesi, nel senso che siete nati da poco. Va bene. È un dramma, dici? Sta facendo casino? No, è bravo. Ah no, però è la regola che ti avevo dato io. Il batterista è sempre. Sì. Hai ragione, se segnalo sempre lì. Però se è bravo, tienilo buono, Mentre sì. Smell in Nirvana è più dura da cantare. Quella è più dura, il batterista sempre se ne tempo. Esatto. Però... Ah, lì c'è l'attacco. Starotto, tarotto, tan, taratatatata, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Sì, però lì quando cambi il pedale è troppo bello. Però lì no, a soli. Aspetta. Solo si fa solo il secondo. Esatto, quello piccolino. Sì, quello. No, il primo, scusa. Sei sceso dalla macchina, Matteo. Sì, o ti stanno tirando sotto? Allora, Però guarda, se trovo gli altri del gruppo devi fare, sai, c'è qui il batterista. No, c'è il batterista? Passamelo subito. Chi è? Pronto? Pronto, ciao, chi sei? Come ti chiami? Remy Morandi. Ciao, ciao, Remy. Ciao, non ciao. Sapevo che ti chiami. Siamo Rock FM, come sai, noi ci occupiamo della band, stiamo controllando Mattes, se vi tratta bene. Mi dicono che tieni bene il tempo. Lo seguo, ci provo. Con Warpig dei Black Sabbath come ti sei trovato? Ah, benissimo. Bene? Benissimo. Capito? E anche con i Nirvana ti diverti? Ah, io con tutti. Bravo. Ripassami Matte che vi saluto. Ciao, ciao. Ciao. Pronto? Riva, non mi hai detto che si chiamava Remy, Matte? No, te l'avevo detto. Devi dirmelo, è fondamentale. Senti, questa cosa del heavy metal improvvisato mi interessava, ma ce ne occupiamo venerdì magari, ti richiamo venerdì. Vai, poi casomai non lo registro, se vuoi ti mando qualcosa. Quello dovresti. Ciao Matte, vive Dieger! Ciao, grazie. Dimmi Frigo, ma se facciamo la band poi dobbiamo andare in tournée? Certo, e io non vedo l'ora di andare in tour. Ci pensi? Sesso, droga e rock and roll. Soprattutto sesso e droga sbafo. Ma scusa Rogna, la roba buona ce la danno già qua gratis gli umani. Io coglierei l'occasione del tour per parlare dei problemi che affliggono noi topi da laboratorio, affinché tutto il mondo ne venga a conoscenza. Maledetti umani, questa volta la pagheranno. Beh sì, è vero, in effetti la roba ce la danno già, però io voglio pagarla, come fanno le vere rockstar. Spacchiamo tutto, sex and drugs and rock and roll. I ratoni spaccano tutto! Sex and drugs and rock and roll, spacchiamo tutto! Prossimamente, Frigo e Rogna fanno la band. Il gruppo.